Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quello che credo però con forza è che nessun uomo possa dire a una donna che cosa può e non può fare in ragione della gravidanza. Brava. Questo non si può fare. E su questo non ci piove, care ascoltatrici, cari ascoltatori, si è arrabbiata. Giorgia Meloni ha deciso, lei dice, per un gesto d'amore nei confronti di Roma e dei romani, ma anche, diciamo, una specie di rivincita, di risposta dura agli sconsigli di Bertolaso, di Berlusconi a proposito della sua gravidanza. Sapete, insomma, tutte le polemiche di questi giorni non ve le sto a ripetere, ormai le conoscete bene. Basta, ha deciso, si candida, correrà per Roma, correrà per il Campidoglio contro Bertolaso, però in realtà lei ha detto, ma se vuole fare un passo di lato e aiutarmi nell'amministrazione, nel gestire la città, ben volentieri. Quindi a questo punto è lei che dice a Bertolaso di fare un passo indietro o di lato, se la vuole appunto affiancare. Naturalmente sarà uno degli argomenti principali, l'argomento principale questa sera ancora qui a Effetto Notte, la politica, con la candidatura quindi di Giorgia Meloni, con un affollamento generale, si può dire ormai, per quanto riguarda i candidati a Roma per il Campidoglio, anche perché notizia di oggi che anche il sindaco di Verona, ex della Lega e adesso leader del movimento Fare, Flavio Tosi, sta pensando di candidarsi, non ha ancora deciso ma ci sta pensando, e capiremo se fino a quando arriverà questa riflessione questa sera, mentre sarà ospite qui a Effetto Notte Flavio Tosi. Quindi non perdetevi l'appuntamento con lui, naturalmente anche tutte le altre notizie, gli altri argomenti di Effetto Notte. Quello che vi chiedo è, a questo punto, in mezzo a tutto questo affollamento, Giorgia Meloni dice: credo che sarà una campagna elettorale affascinante, anche se sembra la corsa più pazza del mondo questa di Roma. E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro giudizio su quello che sta accadendo a Roma in vista delle elezioni comunali di giugno? 349-238-6666, lo sapete, è sempre il numero per i messaggi, 349-238-6666, altrimenti è sempre lì per voi giorno e notte, comodamente, la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale, come sapete, potete sempre aderire senza indugio. Allora, rito di sempre, inizialmente vi sintetizzo la giornata, poi cominciamo a entrare all'interno dei vari argomenti. Terrorismo, 4 arresti a Parigi, preparavano un attentato, Hollande parla di allerta elevatissima, e a Bruxelles 2 sospetti rilasciati e 2 ancora in fuga. Migranti, in quasi 1500 sono stati salvati in mare dalle navi italiane al largo della Libia, ma a Bruxelles bacchetta l'Italia. Juncker dichiara: la Turchia non è pronta per entrare in Unione Europea e non lo sarà nemmeno tra 10 anni. La corsa al Campidoglio, Meloni si candida contro Bertolaso e ci sta pensando anche Flavio Tosi stasera a Effetto Notte, mentre è spaccatura tra Lega e Forza Italia anche a Torino. Stati Uniti, la Fed rivede al ribasso le stime di crescita americane per il 2016 a più 2,2% rispetto al 2,4% previsto in dicembre. L'omicidio di Giulio Regeni, l'Egitto promette verità sulla sua morte, i genitori del giovane ricercatore oggi hanno incontrato il procuratore di Roma Pignatone. Brasile, l'ex presidente Lula, nuovo ministro della Casa Civile, ottiene così l'immunità dalle accuse per riciclaggio. Il delitto di Roma, uno dei due presunti killer di Varani, Manuel Fofo, dice ai PM: come potrò mai scusarmi con la famiglia di Luca? E ha detto a suo padre: è vero, volevo ucciderti. Calcio, per la Champions League, la Juventus in campo a Monaco per tentare di battere il Bayern. E ho appena dato il titolo e mi sa che è già successo qualcosa per la Juventus. Dario Ricci? Sì. E come, Roberta, Juventus in vantaggio, siamo al 20° di gioco all'Allianz Arena, Juventus 1, Bayern Monaco 0, una Juventus che tra l'altro all'ultimo istante ha dovuto fare a meno anche dell'ennesimo infortunato, è un Mario Mandzukic solamente in panchina, ma il gol porta la firma forse del giocatore più atteso, Paul Pogba, che al quinto ha approfittato di un'incursione sulla destra di Lichtsteiner, l'errore del difensore del terzino sinistro del Bayern, Alaba, insieme al portiere Neuer, pallone che è arrivato al limite dell'area a Pogba, che ha infilato a porta vuota con un preciso piatto destro. Juventus che sta per il momento ipnotizzando un Bayern Monaco che, fosse questo il risultato finale, sarebbe clamorosamente eliminato dopo il 2-2 dell'andata. 21° di gioco a Monaco di Baviera, Bayern 0, Juventus 1. A dopo allora con Dario Ricci. Beh, insomma, è un po' presto per dire che sia il risultato finale, lo spereranno i juventini naturalmente. Adesso però partiamo dall'allerta terrorismo in Francia e in Belgio, 4 persone sono state fermate questa mattina all'alba a Parigi perché sospettate di voler compiere un attentato imminente nella capitale. Intanto in Belgio, dopo il blitz di ieri, 2 sospetti sono stati rilasciati, altri 2 sono in fuga. stavano per compiere un nuovo attentato a Parigi. Con questa accusa, 4 persone sono state fermate all'alba nella 18ª circoscrizione della capitale francese, nella vicina banlieue di Saint-Denis. Secondo i media transalpini, i fermati sono 3 uomini e una donna. Tra loro, 2 fratelli francesi di origine turca, un francese diventato islamico radicale e già noto ai servizi antiterrorismo che lo avevano arrestato nel 2014 quando stava per partire per la Siria, e dall'anno scorso agli arresti domiciliari. La donna è identificata come la moglie di quest'ultimo. Intanto in Belgio è caccia all'uomo. Sono ancora in fuga i 2 terroristi scappati dopo lo scontro a fuoco di ieri a Bruxelles, che ha provocato il ferimento di 4 poliziotti e il terrore nel quartiere di Forrest, che si è ritrovato blindato. Nell'appartamento dal quale è partita la sparatoria dove un presunto terrorista è morto è stata ritrovata una bandiera dell'ISIS, caricatori per Kalashnikov e altre munizioni. 2 sospetti arrestati dalla polizia belga tra ieri sera e questa mattina sono invece stati rilasciati nel pomeriggio, ha comunicato la procura federale, che ha fatto sapere che un'altra perquisizione condotta in mattinata in un piccolo comune fiammingo a sud di Forrest ha dato esito negativo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre in primissimo piano c'è l'emergenza migranti. Sono complessivamente 1.467 migranti recuperati in mare nella giornata di oggi nel canale di Sicilia nel corso di 12 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera. Le navi hanno recuperato anche i cadaveri di 3 migranti. Nel frattempo la Commissione Europea bacchetta l'Italia, dice, dove i luoghi di accoglienza per i migranti che devono essere rimpatriati rimangono estremamente limitati, e questo rende difficili le operazioni di rimpatrio, dice l'Unione Europea. E alla vigilia di un nuovo vertice europeo sui migranti, ci sarà domani, il presidente del Consiglio Europeo Tusk dice che lo scopo di questo vertice di domani e venerdì è trovare un accordo accettabile per tutti i 28 membri dell'Unione Europea e la Turchia, ma c'è ancora molto da fare. Tra l'altro sentivate dai titoli che il presidente della Commissione Europea Juncker dice la Turchia non la vedo entrare in Europa né ora né probabilmente neanche tra 10 anni, dice, non è pronta. Ne parleremo più tardi, quei effetto notte. Siamo sulla politica italiana con la corsa al Campidoglio. Giorgia Meloni, che ha annunciato oggi ufficialmente la sua candidatura a Roma contro Bertolaso, anche se dice se vuol collaborare sono ben contenta. Ci sta pensando anche Flavio Tosi, sindaco di Verona, stasera, qui sarà tra poco effetto notte, mentre spaccatura fra Lega e Forza Italia anche a Torino. Anche su questo torneremo a breve. Tra le varie notizie di politica interna va aggiunto che Antonio Bassolino ha annunciato di aver presentato il terzo ricorso contro le primarie del 6 marzo a Napoli. Il ricorso è stato presentato alla Commissione Nazionale di Garanzia, alla quale Bassolino chiede formalmente che si voti di nuovo a Napoli nei seggi contestati. Stati Uniti, la Fed, la banca centrale americana, rivede al ribasso le stime di crescita americane per il 2016, quando l'economia si espanderà del 2,2% anziché del 2,4% come era stato previsto in dicembre. La disoccupazione negli Stati Uniti si attesterà al 4,7%, un dato invariato rispetto a dicembre, mentre l'inflazione rallenterà all'1,2%. Rimaniamo ancora all'estero, ma in Brasile. L'ex presidente del Brasile Lula entra nel governo di Dilma Rousseff come ministro della Casa Civile, un super ministero a cui spetta il coordinamento dell'attività di governo. Una soluzione prospettata già da una settimana, mirata a congelare le accuse mosse dal giudice Sergio Moro, l'alfiere dell'inchiesta Lava Jato, la Mani Pulite del Brasile. Lula si è deciso ad entrare nella squadra di governo di Dilma Rousseff per mettersi al riparo dai giudici brasiliani che hanno deciso il suo arresto preventivo e per rivitalizzare l'azione del governo alle prese con la peggiore crisi economica da 3 decenni e con una crisi politica sfociata nella richiesta di impeachment da parte delle opposizioni. Le manifestazioni oceaniche antigovernative in Brasile costituiscono un dato politico oggettivo di sfiducia nei confronti dell'attuale establishment. La rete di collusioni e tangenti tra Petrobras, le grandi imprese brasiliane e il Partito dei Lavoratori hanno spinto il consenso personale della presidenta Rousseff al 10%. Tuttavia l'inchiesta giudiziaria contro Lula e l'accusa di impeachment verso Rousseff poggiano su basi giuridiche più fragili. Roberto Darin, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso l'omicidio di Giulio Regeni. Paolo e Claudio Regeni, genitori del ricercatore universitario ucciso in Egitto, hanno incontrato oggi pomeriggio a Roma il procuratore Giuseppe Pignatone e sono stati informati dell'andamento dell'inchiesta. Primo timido riavvicinamento tra Roma e il Cairo sul caso Regeni. Dopo il muro di gomma delle prime settimane è infatti lo stesso presidente egiziano Al-Sisi a promettere: scopriremo e puniremo i responsabili. Certo, si chiede Al-Sisi, bisogna interrogarsi sulla tempistica del delitto, del corpo di Regeni ritrovato proprio durante la visita al Cairo di un ministro italiano. Da Al-Sisi passi in avanti, commenta quindi il presidente del Consiglio Renzi, parole molto importanti che confermano quello che lui chiama il rapporto speciale tra Italia ed Egitto. È fondamentale, aggiunge il premier, il coinvolgimento del procuratore Pignatone e che ci sia condivisione nelle indagini. E proprio su questo fronte dal Ministero dell'Interno egiziano fanno sapere che è destituita di fondamento la testimonianza dell'ingegnere che aveva parlato di un litigio tra Giulio Regeni e uno straniero il giorno prima della scomparsa del ricercatore italiano. Fascicolo aperto infine della Procura di Roma sulla scomparsa avvenuta nella capitale di un egiziano e della quale ha fatto cenno anche il presidente Al-Sisi. Vincenzo Miglietta, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo adesso alla cronaca. Nel terzo interrogatorio in carcere sull'omicidio di Luca Varani a Roma, uno dei due accusati dell'omicidio, Manuel Foffo, al PM di Roma ha detto: ho fatto una cosa terribile e agghiacciante, non so come potrò mai scusarmi con i genitori di Luca. E si apprende anche di un suo dialogo avvenuto in carcere tra Foffo e suo padre. Lui, il padre, gli ha chiesto: è vero che volevi uccidermi? Lui dice: sì, è vero. E questo drammatico dialogo tra Walter Foffo col figlio Manuel, avvenuto nell'incontro a Regina Coeli. Dopo queste parole i due si sarebbero abbracciati in lacrime. Nei giorni scorsi il giovane universitario, parlando appunto con i PM della Procura di Roma, aveva affermato che dietro questo terribile omicidio di Luca Varani si annidava la sua volontà di uccidere il padre. Parliamo dell'inchiesta sull'OPA Itace Ansaldo STS in corso da parte della Procura di Milano. È stata perquisita questa mattina a Roma anche la sede di Finmeccanica, capogruppo della società di segnalamento ferroviario. Le perquisizioni dunque hanno riguardato le due capogruppo Itace Italia e Finmeccanica e la controllata di quest'ultima Ansaldo STS. Nel frattempo si apprende che il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti la modifica del nome di Finmeccanica in Leonardo. Ancora furbetti del cartellino, 21 dipendenti all'ASL di Avellino sono stati sospesi in via cautelare perché timbravano il cartellino, poi si allontanavano dal posto di lavoro anche per diverse ore. Si tratta di dirigenti, medici e impiegati accusati del reato di truffa. Il commissario straordinario dell'ASL di Avellino, Mario Ferrante, promette di avviare le procedure di licenziamento. E poi il fumo, il modo più efficace per smettere di fumare, smettere all'improvviso. Secondo uno studio dell'Università di Oxford, pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine, questo approccio funziona meglio per smettere improvvisamente di chi prova a farlo gradualmente. Il 25% in più dei volontari che ha seguito questa strada è riuscito infatti a non fumare del tutto per 6 mesi dalla data dell'ultima sigaretta. Dunque, adesso con lo sport, non credo che ci sia ancora un altro gol. Dario Ricci? 2-0 per la Juventus, 28esimo di gioco all'Allianz Arena. Juan Cuadrado, straordinaria l'azione in contropiede, solitario, dimorata dal limite dell'area della Juventus. Si è sbarcato 3-4 giocatori del Bayern Monaco, poi ha servito sulla destra la palla a Cuadrado, che ha aspettato l'uscita di Neuer, si è liberato al tiro e ha infilato il 2-0. Sta accadendo quello che nessuno o ben pochi avrebbero creduto accadesse, Roberta. 30esimo di gioco all'Allianz Arena, Juventus avanti per 2-0 dopo il gol al quinto di Pogba, al 28esimo Cuadrado, e adesso il Bayern, è il Bayern a dover fare l'impresa. Grazie Dario Ricci, mi sembra che Dario non abbia nascosto il suo entusiasmo intanto per questo 2-0 al momento della Juventus sul Bayern. C'è anche una buona notizia per quanto riguarda lo sci: l'alto atesino Peter Phil, l'azzurro di 33 anni, ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, una conquista storica per il nostro sci alpino perché è la prima volta. Bene, adesso finita questa prima parte, lo sapete, potete cominciare anche da prima, vedo diversi vostri messaggi già molti sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche gli sms al 349-238-6666 su quello che sta accadendo a Roma. Quindi si è candidato ufficialmente anche Giorgia Meloni, ci sta pensando Flavio Tosi, sindaco di Verona, che ci sarà tra poco qui ospite a Effetto Notte. Voi ritenete questa situazione affollata a Roma? Dice, per esempio, la definisce così la Meloni: credo possa essere una campagna elettorale affascinante, anche se iniziata come la corsa più pazza del mondo. Quali sono le vostre riflessioni? Già ne stanno arrivando, quindi leggiamone qualcuna. Giorgio dice: è perfettamente coerente col caos nazionale, con l'assenza di qualsiasi programmazione che non sia la mera convenienza politica, e forse neanche questa. Andrea: il solo fatto di aver invocato l'alleanza di tutti tutte le destre per non consegnare Roma ai 5 Stelle la dice lunga sulla caratura del personaggio, dice Andrea a proposito di Meloni. Anselmo, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: penso che sia semplicemente una strategia di marketing politico patrocinato da Berlusconi per spostare l'attenzione dei romani unicamente a destra, però vincerà Virginia Raggi perché è la più degna di tutti e perché io la voterò, dice la candidata del Movimento 5 Stelle. Luca su WhatsApp dice: Meloni sindaco anche col pancione, senza dubbio. E poi gli sms al 349-238-6666. Giacomo da Parma: Roma è una mela golosa, considerato che la capitale è in mano alla mafia e criminalità organizzata, bisogna metterci una persona pulita al potere. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Stavo guardando man mano le agenzie per gli aggiornamenti e anche naturalmente i vostri messaggi, moltissimi che stanno arrivando sulla situazione a Roma. Qualcuno sembra caotico, qualcuno dice questa situazione così diciamo frequentata, affollata, è sintomo di democrazia. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte state scrivendo, è al 349-238-6666. Per esempio dice questo ascoltatore su WhatsApp: Tosi sarebbe una buona alternativa a tutti quei personaggi che si sono candidati. Bertolaso non gli crede nessuno. Se Tosi è stato rieletto, un motivo ci sarà, no? Dice, perché Tosi, che sta pensando di candidarsi, ci sarà tra poco qui Effetto Notte, è stato riconfermato, ha fatto due mandati a Verona e sta finendo il secondo. Poi altri messaggi. Questo è di Gilles: Roma è ingovernabile da chiunque, troppe incrostazioni decennali di piccoli poteri di delinquenti e gente senza valore, si discute sui singoli che non cambieranno mai la sostanza, Roma è una città di cui vergognarsi di fronte al mondo, Meloni e Bertolaso sono solo dei bluff, diventeranno sindaco Giachetti o la 5 Stelle e poi non cambierà nulla, scrive Gilles. Continuate con le vostre riflessioni, tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti, intanto vi ricordo le notizie principali. Giorgia Meloni si candida ufficialmente con Salvini per la scalata al centrodestra, rottura intanto della Lega anche con Forza Italia, anche a Torino. E poi il Movimento 5 Stelle dice presto un nome per Milano. Sapete che la candidata Patrizia Bedori si è ritirata nei giorni scorsi. Allarme attentato a Parigi, Hollande dice la minaccia è molto elevata, 4 arresti in Francia, in Belgio rilasciati, 2 fermati e altri 2 sono in fuga. Migranti, l'Unione Europea chiede all'Italia di fare di più, non ci saranno rimpatri a tappeto, assicurano adesso in vista del Consiglio Europeo di domani e del possibile accordo con la Turchia. E poi la strategia di Renzi, giù le tasse anche in deficit, boom di assunti nel 2015, lo sentiremo poi dopo. Libia nel caos, con Tripoli che si oppone al potere di Sarraj, insomma non si riesce ad avere un esecutivo unico in Libia e quindi la stabilizzazione del paese. E poi per lo sci, Peter Thiel entra nella storia vincendo la Coppa del Mondo. Ah, e poi per la Champions League 2-0 della Juventus contro il Bayern per il momento. Avete sentito prima l'entusiasmo di Dario Ricci. Allora, è ufficiale, ieri era quasi praticamente cosa fatta, ma aveva detto che doveva prendersi un po' di ore per pensarci, che l'avrebbe rimandato oggi la decisione. Oggi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha deciso, si candida ufficialmente a sindaca di Roma. Allora, sentiamo il suo annuncio. Allora, sono venuta ad annunciare, dopo attenta e ragionata riflessione, che ho deciso di correre per la carica di sindaco di Roma. Ecco, quindi l'avete sentita, decisione che in fondo è stata anche per certi versi una risposta a chi in questi giorni, in primis l'ex capo della Protezione Civile Bertolaso, che adesso è candidato forse solo di Forza Italia, ma in secondis anche Berlusconi, che le avevano consigliato di occuparsi della sua gravidanza e della sua imminente maternità. Con le parole, a parte il fatto principale che è questa candidatura come risposta, però ha risposto anche così. Quello che credo però con forza è che nessun uomo possa dire a una donna che cosa può e non può fare in ragione della gravidanza. Questo non si può fare. E ha aggiunto, citando un mitologico simbolo: e a chi mi dice che forse non potrei fare il sindaco perché mi ritroverei a allattare mio figlio, ricordo che in una città che ha come simbolo una luma che allatta 2 gemelli non può essere il sindaco che allatta un bambino. Dicono che, cioè, certo, voglio anche dire che farò la campagna elettorale con i tempi di una donna, farò la campagna elettorale con i tempi di una mamma. Non so se ci sia da augurare di avere due gemelli, Giorgia Meloni sarebbe ancora un po' più in difficoltà. A questo punto, comunque, con l'annuncio di Giorgia Meloni, i candidati diventano praticamente quattro verso il centrodestra, insomma, Meloni, Bertolaso, Francesco Storace e anche l'imprenditore Alfio Marchini. E Pippo Civati, ex PD leader del Movimento Possibile, ironizza prima sul candidato 5 Stelle a Napoli, Brambilla, e poi sul cospicuo numero di candidati a Roma. Sentiamo. Hanno candidato un uomo, perché ormai non è più giovanissimo, che si chiama Brambilla, che viene dalla mia città Monza a Napoli. Allora io pensavo di candidarmi a Trieste, mi sembra una città interessante, sono molto vicino ai triestini, di sicuro non mi candido a Roma, però anche perché segnalo che abbiamo il problema al contrario, di solito è difficile trovare il candidato sindaco, a Roma mi sembra che ci sia metà della popolazione che sia candidata o autocandidata. Se riusciamo a semplificare, noi che non ci riconosciamo nel PD e sicuramente non ci riconosciamo alla destra, il nostro campo, e troviamo un candidato sindaco, forse è meglio, magari una candidata sindaca. Grande corsa a Roma, insomma, ma non è finita qui, perché oggi Flavio Tosi, stimato sindaco di Verona, appunto dicevamo al suo secondo mandato, leader del movimento Fare ed ex esponente di spicco della Lega, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio ha detto che ci sta pensando anche lui a candidarsi come sindaco di Roma. È vero, sindaco Tosi? Ci stiamo pensando. Buonasera intanto. Stiamo pensando proprio per quello che è successo a Roma, perché adesso ormai l'impressione è che il tema non sia più il programma, non siano i problemi della città, non sia la buona amministrazione, cosa di cui i romani hanno un disperato bisogno e voglia, ma guerre fratricide, dispetti, ma dare la parola poi mancarla, giocare sulla testa di Roma, perché è quello che è successo tra Berlusconi, Salvini e la Meloni, è una questione che non è romana, è una guerra per la leadership del centrodestra, dove Salvini e la Meloni hanno deciso di cercare di far fuori Berlusconi in questo modo. Però credo che le candidature a sindaco dovrebbero essere pensate con rispetto per la città, con rispetto dei romani, e soprattutto portando avanti persone che sappiano amministrare. Allora, siccome degli amici mi hanno detto, siccome tu sai amministrare, fallo te, allora ho detto ci penso. Però lei lo fa, questa idea le è venuta dall'alto del balcone di Giulietta, dall'arena di Verona. Uno dice, e con Roma, dopo tutto questo affollamento, che c'entra il sindaco di Verona? Ma guardi, perché io le sono qualche dato. Sì. Io mi sono insediato a sindaco che avevo 2.800 dipendenti, oggi ne ho 2.200. Io ho il comune di Verona, fra tutti i comuni capoluogo, è il miglior pagatore, nel senso che noi paghiamo i fornitori del comune a 13 giorni, la legge dice 30, noi paghiamo a 13 giorni, siamo i più veloci d'Italia a pagare, proprio per rispetto dei fornitori. Siamo fra i comuni capoluogo sempre il quart'ultimo comune per tassazione locale, quindi fra quelli che fanno pagare meno tasse. Perché abbiamo creato una macchina amministrativa efficiente che dà buoni servizi, che sono servizi buoni, riconosciuti come tali, e ha un costo ragionevolmente basso, con una macchina amministrativa che funziona, dove ci sono investimenti, perché poi quando la macchina amministrativa funziona la città è pulita e sicura, e Verona è considerata città pulita e sicura. Allora questa è la buona amministrazione, che è esportabile, cioè questo tipo di ragionamento amministrativo vale a Verona come a Napoli, come a Roma, come a Palermo, cioè, l'importante è avere un sindaco che sappia fare il sindaco, perché dopo è quello che ha bisogno, e ripeto, soprattutto Roma con quello che è accaduto, di un sindaco che sappia governare una macchina amministrativa complessa, che sappia prendere decisioni, che conosca le norme e si sappia imporre rispetto a una situazione di assoluto non governo, perché c'è stata forse la colpa più grande che si può attribuire a Ignazio Marino è che non ha fatto il sindaco per tutti gli anni che ha avuto a disposizione. Le faccio una domanda un po' cattiva, sindaco Tosi. Dico, questa non è anche un po' magari una sua possibile rivincita su Salvini, come erano andate le regionali del Veneto? Lei si era candidato, Salvini le aveva detto se ti candidi sei fuori dalla Lega, poi lei era fuoriuscito, quindi poi aveva vinto Zaia. Non c'entra niente questo. Non è andata così. Salvini mi ha espulso ben prima delle regionali e mi ha espulso perché io avevo detto che le alleanze in Veneto le dovevamo decidere noi veneti, non doveva essere Milano a venircele a imporre, ma Salvini ha un atteggiamento rispetto a Bossi e a Maroni che l'hanno preceduto, ha un atteggiamento piuttosto arrogante. A me gli ordini non me li dà nessuno, il consenso che ce l'ho me lo sono sempre guadagnato sul campo andando a prendermi i voti dei cittadini, e quindi a me Salvini ordini me le dà. Questo è il motivo, non mi interessa niente le rivincite, le ripicche, io sono abituato ad amministrare, a risolvere i problemi. Il sindaco è una persona che deve essere in grado di risolvere i problemi della comunità, far funzionare i servizi pubblici, far andare i trasporti, le mense scolastiche, fare in modo che le strade non siano piene di buche, che il servizio di pulizia risponda in maniera adeguata alle esigenze di una città turistica come Roma, anche Verona in parte, ovviamente come Roma moltissimo. Quindi un sindaco deve essere in grado di far funzionare la città. Per questo dico, al di là della provenienza, il sindaco, cioè può esserci un candidato sindaco di Roma che è un pessimo sindaco, un pessimo amministratore, oppure non ha mai amministrato in vita sua, può esserci un candidato che non è romano ma che sa amministrare. Sindaco Tosi, mi dica proprio, lei ne ha elencati un po' la pulizia, i trasporti, se dovesse dire le quattro priorità di Roma nel suo possibile programma. Beh, una è quella di mettere mano ai costi del personale. Perché se fra amministrazione centrale e aziende collegate ci sono 63.000 dipendenti, e come dicevo prima, io sono partito da 2.800 e in 8 anni e poco più sono arrivato a 2.200. Quindi un po' di tagli di personale? Beh, bisogna bloccare assolutamente il turnover, fare in modo che chi se deve andare in pensione se ne vada. E poi bisogna anche cominciare a mettere ordine, perché evidentemente il fatto che ci sia una città allo sfascio, ci sono anche delle responsabilità, cioè ci sono delle omissioni, c'è qualcuno, che non vuol dire tutti, vuol dire andare a individuare chi all'interno della pubblica amministrazione, di quella pubblica amministrazione, non ha fatto il proprio dovere e non fa il proprio dovere, perché se le cose non funzionano qualcuno ne è responsabile. Uno che fa il sindaco deve anche far passare il principio sacrosanto che chi sbaglia paga, anche nella pubblica amministrazione. Sindaco Tosi, per chiudere, quando è che scioglie la riserva? Quando è che che decide? Ma adesso nei prossimi giorni ci ragioniamo, però penso che a Verona abbiamo dimostrato che si può rendere una città più sicura, più ordinata. Verona è l'unica città turistica d'Italia dove non ci sono i cosiddetti Vucumpra, a Verona non ci sono da 8 anni a questa parte. Questo, ma non perché il sindaco Tosi faccia i miracoli, perché è capace di usare le leggi e farle applicare. E questo, ripeto, non vuol dire che se sia certa la candidatura a sindaco, però spiace vedere che per quanto riguarda una città, la città più importante d'Italia, con la pubblica amministrazione più complicata d'Italia, quello che accade siano baruffe di partito, scontri politici nazionali, quando invece bisognerebbe pensare al programma e amministrare questa città. Allora, buona riflessione, sindaco Flavio Tosi. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie. Saluto Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Barbara, buonasera. Hai sentito di questa situazione di ulteriore affollamento, quindi si aggiunge probabilmente anche il sindaco di Verona Tosi. Anche Salvini ha detto i giochi ormai sono fatti, anche a Roma abbiamo i candidati migliori, però insomma mi sembra che crescano man mano questi candidati, no? Poi prima di tutto Giorgia Meloni, oggi che ne sarà di queste candidature di questa città? Ma io credo, appunto, l'ho già ripetuto nei giorni scorsi, che probabilmente la situazione nella prossima settimana o insomma entro una decina di giorni potrebbe nuovamente cambiare. Cioè io mi aspetto che altri candidati, pensi? No, io penso che dopo questa proliferazione di candidati si arriverà a una scrematura. Nel senso che a questo punto a farla da padroni saranno i sondaggisti. Tutti i partiti in questo momento, già da giorni, ma ora più che mai, attendono di ricevere dai sondaggisti, che se ne dica, il gradimento dei vari candidati per testarli. Ora, che la Meloni abbia un gradimento superiore a Bertolaso, insomma, è acclarato già da settimane. Bisognerà vedere quanto Bertolaso resisterà a questa rottura dell'alleanza, nel senso che se dovesse precipitare nelle preferenze dei romani, io non escludo che a questo punto un ripensamento di Berlusconi possa esserci, se non dello stesso Bertolaso, che certo non gli farà piacere una corsa in cui rischia di arrivare insomma tra gli ultimi, perché poi qui la corsa è al ballottaggio e chi arriva al ballottaggio soprattutto si dà per certo che ci arrivi la Raggi, ovvero la candidata dei 5 Stelle, ed è il secondo posto al momento, è ancora un'incognita, con un centrodestra così diviso. sembra assai probabile che ci arrivi il PD di Giachetti, però appunto io mi aspetto qualche colpo di scena prossimamente. Poi in quale senso questo colpo di scena possa andare è ancora tutto da vedere. Quindi non è ancora finita praticamente, non è vero che i giochi sono fatti, qui è ancora tutto un rimescolamento. Ma tu no, dicevi... perché bisogna sempre ricordare che le liste elettorali vengono presentate 30 giorni prima delle elezioni. Quindi siamo oggi al 16 marzo, le liste elettorali verranno presentate non prima della fine di aprile, quindi perché si voterà i primi di giugno, non sappiamo ancora se il 6, il 12, ma comunque non si voterà prima, quindi c'è ancora tanto tempo davanti per arrivare a degli accordi. E lì Berlusconi potrebbe o decidere di convergere, magari dopo un passo indietro di Bertolaso, sulla Meloni, oppure invece fare lo sgambetto agli alleati, che oggi definiamo ex alleati, e invece andare con Marchini. Con l'imprenditore che fin dall'inizio ha fatto questa corsa in solitaria, appoggiato dai centristi di NCD. Insomma, è tutto da vedere. Direi che però è chiaro che qui c'è un'altra, è evidente che insomma Salvini punta al bersaglio grosso, perché oggi dopo insomma l'uscita su Roma, che era già da giorni sui giornali, oggi ha rotto anche a Torino platealmente. E quindi insomma scaricando completamente il candidato di Forza Italia Osvaldo Napoli, insomma è una coincidenza che fa riflettere, no? È tutto un gioco che si fa a livello nazionale, quindi le manovre, vedere dove mettere i propri candidati. Già Salvini aveva fatto capire qualche tempo fa che non gli sarebbe dispiaciuto correre da solo con la Lega, è quello che quindi in qualche modo sta facendo, almeno in città importanti. Sì, non si capisce bene anche che cosa voglia fare Salvini, perché oggi insomma si è visto anche con la nipote di Marie Le Pen, quindi è un Salvini che si sta posizionando sempre più a destra, in cui non ha più l'altra gamba che aveva caratterizzato il centrodestra per questi 20 anni, ovvero Forza Italia, che comunque copriva un'area più moderata, no? Spostandosi così a destra, puntando tutto sull'anti-Europa, sugli anti-immigrati, si posiziona però in un elettorato che è minoritario, non solo in Italia, ma anche laddove, quando noi parliamo dell'avanzata populista, questa avanzata populista vediamo che si ferma al 20%, Marine Le Pen arriva al 25% in Francia, ma poi quando va a fare i ballottaggi perde sempre. Quindi sono forze che sono all'opposizione, di governo. Ti dico solo, oggi la Pascale, la compagna Francesca Pascale di Berlusconi, quindi non Berlusconi direttamente, ma lei su Instagram, uno dei social network, ha attaccato la Meloni, evidentemente per via in diretta, dice: quindi siamo certi, scrive, che se la Meloni diventasse sindaco di Roma saranno multati i gay, i neri, gli immigrati, per i cattivi sarà pronto all'uso un cucchiaio made in Cina di olio di ricino, i bambini vestiranno obbligatoriamente di nero e coi pantaloncini corti, le donne ritorneranno a non avere più il diritto di voto. Ah no, dice lei, è un elegante fascista moderna, le donne possono votare, possono avere figli fuori dal matrimonio, presentarsi al Family Day puntando il dito contro il prossimo, chi se ne frega se il buon Dio dice di amarli come noi stessi. Questo è il commento della Pascale sulla Meloni, mi cominciano gli attacchi. Barbara Fiammeri, io ti ringrazio, ti saluto, alla prossima puntata allora. Alla prossima. Di questa telenovela di Roma. Grazie Barbara, direi che ci sono ancora tanti messaggi, ma ve li leggo poi dopo, ci sono gli altri argomenti. Facciamo questa pausa di ricreazione, voi continuate con le vostre riflessioni su quello che sta succedendo a Roma, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666. Leggo proprio al volo questo WhatsApp: la candidatura di Tosi è la più seria. Purtroppo le ultime caratteristiche di Tosi non sono quelle che i romani prediligono, tagli, lavoro, efficienza, figuriamoci. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano. Prima di andare sui vostri messaggi, di ricordarvi le notizie principali, volevo leggere ancora qualche vostro messaggio, per esempio appunto su questo affollamento di Roma. Abbiamo appena parlato col sindaco di Verona Tosi, che anche lui ci sta pensando a candidarsi a Roma. Lorenzo da Roma dice: né destra né sinistra, Roma perché la città è stata usurpata e degradata, non parliamo delle periferie, vere discariche a cielo aperto. Ora proverò con i 5 Stelle con la Raggi, dice. Poi un altro messaggio: Daniele, sarebbe straordinario se Giorgia Meloni, sindaco, facesse due gemelli, quello che dicevo, non so se augurarlo, e li chiamasse Romolo e Remo, e viva la lupa che dilania morsi disonesti predatori. Quali sono le notizie principali? Adesso ve lo ricordo e vediamo se ci sono degli aggiornamenti anche tra poco sulla partita. Terrorismo, 4 arresti a Parigi, preparavano un attentato, Olanda parla di allerta elevatissima e a Bruxelles 2 sospetti rilasciati e 2 ancora in fuga. Migranti in quasi 1500 sono stati salvati in mare dalle navi italiane al largo della Libia, ma Bruxelles bacchetta l'Italia. Juncker dichiara: la Turchia non è pronta a entrare nell'Unione Europea e non lo sarà nemmeno tra 10 anni. La corsa al Campidoglio, ne abbiamo appena parlato, Meloni si candida contro Bertolaso e ci sta pensando anche Flavio Tosi, l'avete sentito poco fa qui effetto notte, mentre spaccatura tra Lega e Forza Italia anche a Torino. L'omicidio di Giulio Regeni, l'Egitto promette verità sulla sua morte. Brasile, l'ex presidente Lula, nuovo ministro della Casa Civile, ottiene così l'immunità dalle accuse per riciclaggio. Il delitto di Roma, uno dei presunti killer di Varani, Manuel Fofo, dice PM, come potrò mai scusarmi con la famiglia di Luca. Calcio, Champions League, Dario Ricci, che succede? La Juventus è sempre 2-0 col Bayern? Sì, siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, sempre 2-0 per una Juventus davvero sorprendente che ha irretito il Bayern nel primo tempo, in vantaggio al quinto minuto, bravo Pogba ad approfittare di un pasticcio difensivo tra Alaba e Neuer a infilare praticamente a porta vuota, poi al 28esimo è arrivato il raddoppio di Quadrato dopo uno straordinario contropiede di Morata, quello stesso Morata che si era visto annullare per fuorigioco, che poi la Moviola ha dimostrato non esserci, il gol del possibile 3-0. A quel punto una Juventus che ha sfiorato un'altra volta il 3-0 nel finale del primo tempo con una conclusione di Quadrato su cui Neuer si è opposto con l'aiuto del palo. Insomma, alla fine dei primi 45 minuti Juventus in vantaggio per 2-0 e di fatto qualificata, ma questo Bayern guai a darlo per morto, Roberta. Grazie Davide, naturalmente bisogna rimanere vigili, sto parlando naturalmente degli juventini. Adesso invece andiamo sull'argomento che ormai conoscete da mesi e mesi, l'emergenza migranti. Siamo alla vigilia di un nuovo Consiglio europeo, quello di domani, che vedrà sul tavolo come argomento dominante il negoziato per un accordo con la Turchia sulla gestione dei flussi migratori. Come noto, in cambio del suo coinvolgimento, Ankara chiede non solo soldi, che già in parte sono stati dati, ma anche la possibilità per i suoi cittadini di viaggiare nello spazio Schengen, quindi l'Unione Europea, senza necessità di visti, con delle corsie preferenziali, anche se il vicepresidente della Commissione Europea Timmermans ha detto non ci sono scorciatoie, come aveva detto anche nei giorni scorsi la cancelliera tedesca Merkel, dicendo sì, noi vogliamo questo accordo con la Turchia, ma l'Europa, sia chiaro, non intende scendere a compromessi sui principi. Sapete che certamente i diritti civili in Turchia non è che siano proprio, diciamo, la priorità. Con l'intesa Unione Europea-Turchia non si voltano le spalle ai profughi, non ci saranno dei respingimenti o dei rimpatri forzati, viene assicurato. Però la situazione è difficile perché in Grecia continuano a esserci gli arrivi. La Macedonia ha messo le truppe al confine con la Grecia per impedire che ci siano nuovi migranti che passino, e però c'è il rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati che dice che oltre 1 milione di migranti e di rifugiati sono entrati in Grecia da gennaio 2015. Ne parliamo con Angela Del Vecchio, docente di diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale all'Università LUISS. Professoressa Del Vecchio, buonasera. Buonasera a lei. La situazione mi sembra sempre più difficile, no? Da una parte questo negoziato un po' in salita con la Turchia, tra l'altro Juncker, oggi presidente della Commissione Europea, ha detto che è un'anticipazione di un giornale tedesco, la Turchia non è pronta per entrare in Europa e non lo sarà neanche tra 10 anni. Non so quindi questo quanto concili, anche se è cosa che probabilmente pensiamo in molti, no? Obiettivamente, come premessa di un vertice domani sul punto, non è un buon inizio. Questo è una premessa abbastanza tranchante, una dichiarazione come quella di Juncker sull'accordo con la Turchia. Indubbiamente quello che lei diceva poco fa è che la Turchia pone delle condizioni molto pesanti, a parte il fatto dei soldi, perché i soldi sì sono tanti, ma alla fine si possono anche trovare, però la possibilità che i cittadini turchi entrino in Europa, anche quella è vero, non c'è più bisogno del visto, però non è che non ci sono i controlli alle frontiere, non è che applichiamo Schengen a loro. Per cui ci sarebbero sempre i controlli alle frontiere, vuol dire solo che gli stati membri dell'Unione Europea non danno il visto, e forse anche questo potrebbe essere un punto per il negoziato di domani non tanto grave. Il punto molto grave e molto preoccupante è proprio invece l'impegno che la Turchia chiede all'Europa di accogliere un siriano rifugiato in Turchia per ogni migrante che viene prelevato sul territorio europeo. Cioè, uno scambio. Uno scambio, uno contro uno. Mm. E allora, ma perché quelli che sono già entrati nel territorio europeo e che non sono siriani dovrebbero essere rinviati in Turchia? Possono venire benissimo da paesi in cui hanno lo stesso pericolo di vita, di morte, di distruzione. Purtroppo noi sappiamo che l'Africa in questo momento non vive certo tempi tranquilli. E anche allora, l'Iraq, per esempio, no? Anche l'Iraq, ma pensiamo a tutte le crisi africane che sono disseminate nel continente. Ma perché la stessa Somalia, insomma, abbiamo delle zone, lo Yemen, abbiamo delle zone terribili, e allora solo siriani? Ecco questo, è uno contro uno, e poi si dice questo, ma c'è bisogno di modificare le leggi interne, perché la Grecia e la Turchia dovranno modificare le proprie norme interne per fare questo. Non è che fatto l'accordo poi si può realizzare il giorno dopo questo scambio. Insomma, questi sono i punti problematici che nascono. E poi naturalmente l'ultima grave, grandissima richiesta è accelerare il processo di adesione della Turchia all'Unione Europea. E noi sappiamo che sono decenni oramai che questo processo sta andando avanti, proprio perché la Turchia non riesce a garantire il rispetto di alcuni principi fondamentali per l'Europa, come il principio della libertà di espressione, abbiamo visto, no, questi gli arresti nei giornali, ecco, la democrazia, la legalità, il rispetto dei diritti umani, come non so, libertà di espressione, di manifestazione di propria religione, eccetera eccetera. Quindi aspettiamo, professoressa Del Vecchio, ancora questo ulteriore vertice di domani. Come si diceva, la strada è in salita, poi l'Europa che va in ordine sparso, insomma, diciamo, i presupposti non sono particolarmente, non fanno pensare a risultati ottimistici, però staremo a vedere. Io intanto la ringrazio, professoressa Del Vecchio. Grazie a lei, buona serata. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con me sempre il vostro ascolto, gentilmente i vostri messaggi che arrivano sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. A proposito di questa caotica, affollata situazione delle candidature a Roma, c'è per esempio Fabio su WhatsApp che dice: c'è da dire che però Roma è una città difficile da governare, in più vi è la difficile eredità di Marino, e non solo di Marino direi, dei candidati onestamente non me ne piace nemmeno uno, non credo siano qualificati per una città così, troppi problemi e troppa rigidità, dice Fabio. Vi ricordo velocemente le notizie più importanti, che sono appunto la candidatura ufficiale oggi di Giorgia Meloni per Roma, con Salvini con lei per la scalata al centrodestra, rottura della Lega anche a Torino con Forza Italia. Intanto il Movimento 5 Stelle fa sapere che presto ci sarà un nome per Milano. Allarme attentato a Parigi, Hollande dice la minaccia è elevata, ci sono stati 4 arresti in Francia, in Belgio si continua la ricerca di 2 fuggiaschi. Migranti, l'Unione Europea chiede all'Italia di fare di più, non ci saranno rimpatri a tappeto, questo alla vigilia del Consiglio europeo di domani, di cui abbiamo appena parlato. Intanto c'è un rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite che dice che in Grecia dal 2015 sono arrivati 1 milione di profughi. E poi per quanto riguarda la partita Juventus-Bayern, sempre 2-0 per la Juventus. Europa 24 notte. Renzi, a proposito di migranti, dice: l'Europa va su Marte ma si ferma ai domeni, quel campo a profughi al confine tra Macedonia e Grecia. È il terzo in un mese, segno che qualcosa non va e che occorre cambiare metodo, dice Matteo Renzi nelle sue comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo, che appunto si apre domani a Bruxelles, dedicato ai migranti e ai temi economici. Troppe le decisioni inattuate sui migranti, troppi timidi segni di un cambiamento sulla politica economica, dice. 2 giorni fa abbiamo visto un razzo partire da una base del Kazakistan e far volare su Marte, verso Marte, la prima esperienza europea verso il pianeta rosso. Ma allo stesso tempo io ho provato anche plasticamente a mostrare una immagine insieme. L'Europa che va su Marte si ferma ai domeni e vede un bambino costretto ad essere lavato dalla propria mamma con una bottiglia d'acqua, perché quel bambino viene partorito in uno dei campi profughi, chiamiamolo così, se così possiamo chiamarlo, della nostra Europa, del nostro continente, in Grecia. L'Europa che riesce ad andare su Marte si ferma alle porte di un campo profughi. È fortemente critico Matteo Renzi alla vigilia del Consiglio che si apre domani a Bruxelles. Troppi vertici, il terzo in un mese, e l'ordine del giorno è sempre lo stesso, segno che qualcosa non va. Troppe decisioni inattuate, dice il Premier, parlando prima alla Camera e poi al Senato, e che arrivano proprio nelle ore in cui Bruxelles bacchetta invece l'Italia per i centri di rimpatrio, a suo dire limitati. La mancanza di attuazione delle decisioni che pure l'Unione Europea aveva preso quando aveva finalmente accettato l'idea degli hotspot, delle relocation, dei rimpatri. Gli hotspot sono stati fatti, le riallocazioni e i rimpatri no. Al centro del Consiglio UE di domani l'accordo negoziato dalla Merkel con Ankara su rimpatri e quote. Renzi ribadisce la posizione italiana anche su questo. L'Italia si è sempre presentata con una voce uguale nel rapporto con la Turchia nel primo decennio di questo secolo, sia che governasse il centro-sinistra, sia che governasse il centro-destra. Forse sarà un caso più unico che raro, ma il dato di fatto è che su questa tematica noi abbiamo tenuto sempre la stessa posizione. Sintesi: giusto cercare di fare l'accordo con la Turchia, ma ovviamente non a tutti i costi. Ci sono dei principi nel negoziato con la Turchia che sono per noi principi fondamentali, a partire da quello dei diritti umani, a partire da quello della libertà di stampa, a partire da quello che riguarda i valori costitutivi, l'identità del nostro continente. Ma al centro del Consiglio europeo di domani anche i temi economici. Ancora una volta non posso che ribadire la posizione italiana sul fiscal compact, dice Matteo Renzi. Il fiscal compact e le sue declinazioni hanno comportato, a mio giudizio, a nostro giudizio, un danno alla direzione politica economica dell'Europa, non dell'Italia. Cambiare questa direzione richiede determinazione, energia e tenacia. Su crescita, flessibilità, investimenti in Europa sono stati compiuti passi in avanti, seppur troppo timidi. Nella direzione di politica economica, l'Italia ha fatto l'agenda in Europa, ottenendo una flessibilità che in questo ramo del Parlamento e nell'altro ramo del Parlamento è stata talvolta criticata. Le risposte della BCE meritano tutto il nostro sostegno, dice infine Renzi, ma dobbiamo riconoscere che non bastano stimoli di natura finanziaria per far ripartire la crescita. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci insieme, intanto vedo già l'intervista fatta poco fa, che ho fatto poco fa a Tosi, Flavio Tosi, già sulle agenzie. Sciolgo la riserva nei prossimi giorni, non servono baruffe ma programmi per Roma, e non è la mia una rivalsa nei confronti di Salvini. Poi invece, per quanto riguarda i vostri messaggi, sempre relativamente alla situazione di Roma, dice Max: povera Roma, tutti a parlare a stracciarsi le vesti, quando poi calerà il sipario la lasceranno sul marciapiede a battere, dice. Poi gli altri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Laura: penso che Roma meriti di essere amministrata davvero, questa città stanca di essere trampolino di lancio per carriere politiche, nonché mensa e palcoscenico per buffoni di ogni sorta. Enzo dice, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte: l'affollamento è democrazia, ma che affollamento, Berlusconi, Salvini, Bertolaso, Storace, il nuovo che avanza. PS: ho letto sulla stampa IT che Salvini 2 anni fa dichiarò: una donna che partorisce pensa giustamente a suo figlio, non al ministero. Le solite contraddizioni, si riferiva in quel caso alla ministra Madia che aspettava un figlio. Germana dice: personalmente approvo la candidatura della Meloni, e a quanto a campagne pazze anche Milano non ci annoiamo, però mi sembra che sia già tutto più stabile, più fatto a Milano per il momento. Stefano dice: quella sulla Meloni è una polemica montata sul niente. Luciano scrive: comunque chi sarà sindaco dovrà darsi da fare, speriamo bene, certamente per una città come Roma. Penso che a questo punto noi possiamo brevemente lasciarci, poi lo sapete che vi riaggiorno alle 22.